Eccoci qua, buonasera amici di Radio Wombat e di 8 Hertz, che è il programma che state ascoltando ora. E non ho iniziato facendovi ascoltare un pezzo subito dopo ormai il famosissimo jingle tratto da un campione di un brano dei Coil, perché questa puntata è interamente dedicata a un doppio live che c'è stato mercoledì 13 febbraio scorso presso il Next Emerson a Firenze, di due band europee non italiane, anzi di un solo project norvegese, di un duo della Danimarca di Copenaghen. Abbiamo deciso con lo staff di Radio Wombat di registrarlo, e quindi mi sembrava carino darvi tutto il concerto integrale, sia della performance di Hamre che degli Uragno, che sono appunto il duo della Danimarca. Vi faccio ascoltare intanto la prima parte di quella che è stata la serata, molto molto particolare, con proprio il progetto Hamre, il progetto solista, che appunto è il cognome di Jonas Flemsæter Hamre, un ragazzo giovane che usa il sassofono e un sacco di pedalini, un solo project quindi di hard jazz, di sperimentazione che arriva fino al noise. E le sue impro di sassofono vengono distrutte e manipolate fino a diventare una colonna sonora oscura e molto cinematografica. L'ho trovato molto molto interessante e molto intenso. Non mi rimane intanto di farvelo ascoltare. In Norvegia alcune cose quindi si fanno così. A dopo. Thank you. prima di lasciarvi al concerto integrale degli Uragno, ve ne parlerò in seguito. Intanto vi ricordo di dare un'occhiata al palinsesto aggiornato che potete trovare appunto sul sito, dove sono scritti tutti gli orari e i giorni delle dirette e delle repliche anche di ogni singolo programma. Hot Pairs va appunto in onda il giovedì alle 21:15 in diretta, ma in replica lo potete trovare venerdì alle 19:30 e sabato alle 14:30. Quindi in caso ricordatevelo, perché anche la radio è anche su AM all'1359, per cui insomma se siete in macchina o a casa con un apparecchio ormai vecchio come può essere una radio con la frequenza M, potete sbizzarrirvi a sentire le sonorità diverse che risultano da un tipo differente di comunicazione. Vi ricordo anche che, sempre parlando appunto della serata che c'è stata all'Emerson, che hanno aperto anche un museo, sì, che si chiama NEMA, Next Emerson Museo Autogestito, e trovate tutto quello che stanno facendo al sito nema.noblogs.org, e ci sono mostre sia permanenti che altre mostre che via via si rinnovano. È già aperto credo da qualche mese, secondo me già hanno fatto delle belle cose, quindi se siete artisti proponete anche al NEMA qualcosa, oltre che guardare sia diciamo sculture o quadri o installazioni. Ci sono anche proprio i muri dell'Emerson, che sono dipinti egregiamente da graffitari vari, per cui sono stati tutti diciamo catalogati, ecco, scusate, e potete dare proprio un occhio anche a tutta quella struttura. Si diceva dell'uranio, che anche a dispetto del nome, appunto, non sono di Copenaghen, della Danimarca, sono un duo, anche loro abbastanza giovani, duo basso e batteria. Allora, Jonathan Huranes al basso e computer, e Seno Hoy alla batteria e l'elettronica. Loro si dichiarano, tra le altre cose, nerdcore, ma anche un harsh noise glitchato. Perché? Perché oltre ad essere un power duo, diciamo, molto, appunto, molto rumoroso, hanno soprattutto nella batteria dei piezo, dei microfoni, sui quali è una centralina, così come può essere un laptop, un computer, con dei suoni o degli effetti assegnati, ricrea proprio anche dei tipi diversi di sonorità legati proprio all'uso della percussione, sia sui piatti che sui tom. Secondo me li ho trovati molto, molto belli. Il caos si fonde anche con una struttura quasi matte in alcuni brani, e quindi insomma non mi rimane che farveli ascoltare. Questo è tutto il concerto, spero che vi piaccia. È registrato con mezzi di fortuna, ma insomma è ascoltabilissimo. Noi ci sentiamo settimana prossima, sempre il giovedì alle 21:15, chissà cosa succederà questa volta a livello di trasmissione. Buonanotte e grazie. We've got a little warmer once I start playing. Beautiful.